Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad. Veselo veče. Za službena putovanja koristite prednosti prevoza avionima JATA. Novo imenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza u Jugoslaviji. Sve mladiće volim, kako da odolim. Zeleno tražim. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Utakmica između Partizana i Hajduka. Raz, dva, tri, majčeki! Plamene zore, Balkan Rock, bude verista, Sumaj Radio, fabrična jutra, muzika, pop kultura e curiosità dal mondo jugoslavo. E allora benvenuti a Balkan Rock, domenica 2 marzo, puntualissimi alle ore 18, a tenervi compagnia su Balkan Rock, su My Radio ci sono Dusko, Slaventina e Drug Tito. Ce la stiamo ridendo e cantando. Stasera grande inizio in pompa magna per la prima diretta di Radio Balkan Rock. Stasera parleremo di un grande personaggio, talmente grande da risultare un po' ingombrante, direi. Va bene, si parla del maresciallo, dell'unico maresciallo. Maresciallo Tito, Josip Broz Tito, il personaggio chiave della ex Jugoslavia, il diciamo capo della resistenza innanzitutto jugoslava durante la Seconda Guerra Mondiale, prima ancora militante del Partito Comunista Jugoslavo, formatosi chiaramente ai tempi era così nell'Unione Sovietica. Da dove cominciamo? Un po' di biografia o partiamo subito con le leggende metropolitane? Facciamo così, partiamo con un pezzo, così ci scaldiamo, scaldiamo gli animi, aspettiamo che qualcuno ci venga in soccorso, che ci hanno lasciato tutti soli in radio quest'oggi, e mettiamo degli Austor Seimeni, una canzone dall'album Bolero del 1985 mi pare. Esattamente, quindi andiamoci ad ascoltare gli Austor e intanto vi diciamo, vi ricordiamo i nostri contatti, il nostro gruppo su Facebook Balkan Rock at My Radio, dove durante la settimana potete comunicare con noi e raccontarci un po' quali sono i vostri gusti musicali, interagire, raccontarci di voi e fare delle proposte anche sugli argomenti che vengono trattati durante la trasmissione. Assolutamente sì, questo è il gruppo appunto su Facebook, abbiamo anche un blog che è balkanrock.noblogs.org e questi sono gli Austor. puška iza pušaka su oči, iza oči su ruke, iza ruku kuca srce, baby. Ne boj se. Ja ću biti tu kraj tebe. Kad bude vreme za to. Kad bude vreme za to. Pred kuće naši ljudi stoje spremni da se bore, hladne cijeli samo čekaju znak. Crni momci ispred grada su palili motore, oni ostavljaju plameni trak. U nama vrijeme se erano gli Austor con Seimeni, ricordiamo un pezzo dell'album Bolero del 1985, uno dei miei gruppi preferitissimi. E allora andiamo un po' a nel bel mezzo, nel cuore, no, di questa trasmissione, che parla anche un po' di fantapolitica, perché vi racconteremo delle cose sulla biografia del maresciallo Tito, ma vi racconteremo anche un po' di leggende metropolitane. Sì, un personaggio in parte misterioso, sicuramente alcuni periodi della sua vita sono avvolti dal mistero, appunto in quel periodo, appunto che sono i primi del Novecento, la Guerra Fredda, il Partito Comunista Sovietico che controlla tutti gli altri partiti d'Europa. Vabbè, comunque una cosa per volta. Vabbè, Josip Broz, il compagno Tito, è nato a Kumrovec, un villaggio in Croazia, nella regione di Zagorje, che si trova nel nord-est, nord-ovest del paese. Secondo alcune fonti, i suoi antenati sarebbero venuti fuggiti di fronte ai turchi nel secolo prima, dal confine bosniaco-dalmata. Secondo altre fonti non sarebbe nemmeno croato e neanche sloveno, ma alcuni dicono inglese, altri ancora austriaco o addirittura trentino. Ha passato molto tempo da piccolo dal suo nonno Martin Javeršek, che viveva in Slovenia, essendo Zagorje abbastanza vicino al confine sloveno, e per questo motivo dicono ha questo accento strano, no? Per chi parla o conosce almeno un po' la lingua serbo-croata sa che aveva questa parlata un po' particolare, un po' difficile da collocare, da identificare. Quindi questo sarebbe il motivo di questo accento molto forte, il fatto che ha vissuto in Slovenia, ha dimenticato praticamente la sua lingua madre. Quindi, se vogliamo continuare con la fantapolitica, se Tito fosse austriaco, tu dovresti essere sardo, seguendo questa linea di accentologia. Potrebbe essere, sì, molti me l'hanno chiesto, ma tu sei sardo, appunto, per queste consonanti un po' dure. Questo perché? Perché proprio poco tempo fa è circolata una notizia su molti media, credo anche in Italia, in seguito all'apertura degli archivi della CIA, che ogni tot anni vengono appunto resi pubblici, sarebbe uscita fuori un'analisi linguistica, adesso aiutami tu che sei del mestiere, glottolinguistica, non so, l'analisi del linguaggio, dell'accento, come si può dire, un'analisi glottolinguistico, ho azzeccato, che avrebbe dimostrato, secondo gli analisti della CIA negli anni 70, che Josip Broz non era jugoslavo, che sarebbe stato, secondo questi risultati, o russo o addirittura polacco. Quindi secondo questa interpretazione sarebbe stato un agente infiltrato negli anni 40 nel Partito Comunista Jugoslavo per chiaramente portare la Jugoslavia sulla retta via e renderla fedele all'Unione Sovietica, no? In seguito però questo personaggio in qualche modo si distacca dal controllo sovietico, ammettendo che questo sia la verità. Chiaramente non ci sono le prove, a parte questa cosa qua da prendere con le pinze. Va bene, allora scusami se ti interrompo, vai. Però avevo proprio bisogno di sentirmi questo colo, questa canzone di che si chiama Colo Drugatita, eseguito proprio dall'Orchestra Filarmonica di Slovena, se non sbaglio. Sì, l'Orchestra Filarmonica Slovena in non so che anni, sinceramente, comunque roba vecchia, molto datata. Va bene, allora ascoltiamoci Colo Drugatita. Друже Тито, наше найміліє, наше серце за тебе забіє, тебе ніде, ніхто рама ніє. Ти всі Божа, свята рода свого, ти всі Божа, свята рода свого, зроби начко, серце хрема свого, зроби начко, серце хрема свого, Сурногорці, а і Македонці, всі босанці, і свіхерці гоці, твоє ім'я з усе серце носе, право ім'я своїм се поносе. Ти всі символ свободи і срече, ти всі символ свободи і срече, ти всі наше наймиліє свече, ти всі наше наймиліє свече, помладіньке, continuiamo a parlare dopo aver sentito Colo Drugatite eseguito dalla Filarmonica Slovena. Grazie Duško per averci regalato questa perla che hai trovato questo pomeriggio nel grande mondo del Wild Wild Web. E andiamo a parlare di fantapolitica, come dicevamo prima. Quindi c'è chi sostiene che Josip Broz Tito sia addirittura trentino. Infatti pare che Broz sia proprio un cognome diffuso in Trentino e più precisamente a Vallarsa. Broz è la forma dialettale infatti di barroccio, un carro generalmente a due ruote adibito al trasporto di legnami, concimi e materiali vari. Come soprannome indica una persona forte e massiccia e tutta d'un pezzo. Lo Schneller lo fa derivare proprio dal nome personale Broso o Brozzo, derivante dal latino Brutius, derivato a sua volta da un termine osco. Anche in questo caso il significato originario sarebbe pesante e massiccio. Il cognome appunto diffuso in Vallarsa, dove c'è la frazione Brozzi, luogo d'origine trentina del cognome, la zona di Arco e Riva del Garda. Inoltre si può trovare una intervista nel web, che probabilmente linkeremo nella nostra pagina del gruppo e anche sul sito di MyRadio, per cui pare che il padre di Josip Broz Tito, che si chiamava Franjo Broz, si chiamasse invece Francesco e derivasse appunto da Vallarsa. Infatti in questa conversazione, questa specie di post su un sito di Vallarsa, pare che dica: certo, raccontano Olivo e Severino, il padre abitava qua sopra a Maso Gece. Non ricordiamo se si chiamasse Ferdinando Francesco, ma la storia è questa: il Broz faceva il legnaiolo e un giorno, quando ruppe la slitta, scoppiò: basta, io non ne posso più. Così se ne andò in Jugoslavia e si sposò. Qualche tempo dopo, nel 1892, vide la luce appunto Josip, il futuro presidente jugoslavo a vita. Tito, cosa ne pensi tu di questo? Mi guardi perplesso. Sì, sono molto perplesso. Mi sembra proprio strano che adesso i trentini si rivendichino questo personaggio qua, così da uno a due. Comunque, vabbè, è un'icona pop e piace un po' a tutti, amato e odiato allo stesso tempo. Infatti anche Bregovic ha fatto proprio un pezzo sui trentini. 33 trentini andavano a Trento. No, non esattamente quello, però vabbè, è una buona idea, possiamo proporglielo. Dai, andiamo avanti con la biografia. Ci sono tantissime biografie su Tito, molto ufficiali, ufficiose, contraddittorie tra loro soprattutto, però ai tempi diciamo il biografo ufficiale di Tito era Vladimir Dedier, un politico di primo piano del Partito Comunista Jugoslavo. Diciamo da questa biografia scritta da Dedier poi è stato tratto un libro per bambini, ispirandosi alla prima parte in cui si raccontava l'infanzia di Tito. Appunto sono racconti su Tito, che era diciamo un libro che veniva letto in quarta elementare, mi pare. Ci facevamo testa tanta con questo libro qua. Si capiscono molte cose di Tito. Infatti. A me però non è che mi facesse impazzire. Vabbè, c'erano dei racconti così morali, io non so, etici, di questo bambino povero con 14 fratelli addirittura. Questo mi pare sia vero, cioè che ha avuto addirittura 14 fratelli, una famiglia numerosissima, robe d'altri tempi. Uno di questi racconti qua racconta, parla di questa storia in cui questi bambini di 5-10 anni vennero lasciati soli perché avevano un qualche funerale i genitori. avevano fame, chiaramente si parla di un periodo in cui insomma era normale. Che storia triste, preparate i fazzoletti. Ecco, ma no, finisce bene, perché poi ci penso al piccolo Jorge che aveva già la stoffa da leader, insomma, invece i suoi fratellini piangevano e si lamentavano, lui invece prese iniziativa e andò in soffitta dove era nascosta una testa di maiale, questo racconto qua dei risvolti quindi gore quasi, che era lasciata lì ad affumicare, adesso non so, era una preparazione, si faceva così, si affumicava la carne, eccetera, e quindi la fece bollire, ha aperto, ha sfondato la porta, ha preso sta testa di maiale e l'ha fatta bollire per i suoi 14 fratellini e sorelline che avevano fame. E vabbè, adesso mi stupisce che nessuno ci abbia fatto un cartone animato per la propaganda titina in Jugoslavia, già me lo vedo, no? Il cartone animato col sarebbe pentolone, stato troppo surreale anche per loro, no. Va bene. Invece volevo chiedervi, qualcuno di voi sa il vero motivo del soprannome Tito? Perché sappiamo che Tito è un soprannome, non è il nome anagrafico di Joseph Broz. Uno delle ipotesi è quindi la teoria più accreditata, benché non verificata, quindi ci chiediamo a voi se avete altre teorie, è che derivi dal fatto che usasse spesso la locuzione serbo-croata Tito, ovvero tu fai questo per impartire gli ordini, no? Quindi Tito, tu questo, tu quest'altro e tu quell'altro. Sì, questa è quella più accreditata, poi in realtà non è verificata, per cui ci chiediamo a voi di darci delucidazioni se ne avete in merito. Adesso andiamo ad ascoltarci Ciola, che dopo tante peripezie siamo riusciti a recuperare. Questo è Druže Tito Miti Secunemo. Se non mettevo Ciola, oggi Duško se ne andava dalla diretta. Vabbè, è fondamentale, uno dei pezzi fondamentali dedicati a Tito, di questo cantautore famosissimo, un cantautore pop, però era un beniamino del regime e quindi ogni tanto sfornava qualche canzoncina di questo genere. Oltretutto assolutamente in modo fiero anche dopo la caduta del regime, no? Ecco, traduciamo un attimo il titolo, perché prendiamo per scontato che i nostri ascoltatori conoscono un po' di serbo-croato, ma magari non è proprio così. Intitolata Compagno Tito, noi ti giuriamo. Infatti, Zdravko Ćolić, ne parlavamo prima a microfoni spenti, in realtà nonostante appunto dopo la caduta del regime non si vergognò mai di cantarla questa canzone, no? Sì, a differenza degli altri che presero distanze da se stessi rispetto a quello che facevano prima durante la Jugoslavia, lui ha detto no, io la canterei ancora oggi, basta chiedermelo, io il titolo lo rispettavo ieri, lo rispetto anche oggi, insomma, vabbè, almeno rimasto coerente. Sentiamo allora Zdravko Ćolić con Druže Tito Mi ti sekunemo. Druže, Tito, mi ti sekunemo. naše pjesme zli neka se plaše. Druže mi to niti se Questo era Ciola con Druge Tito Miti Secunemo. Allora andiamo avanti a parlare di Drug Tito, il compagno Tito. Lo sapete che in tutta Italia ci sono solo due posti, anzi tre, in cui esiste via Josip Broz Tito? Uno a Parma, uno a Reggio Emilia e un altro a Campegine, proprio in, sempre in provincia di Reggio Emilia, almeno a noi così risulta. Però la vogliamo anche a Collegno. Adesso facciamo una petizione, tanto siamo in campagna elettorale. Oggi ci sono le primarie a Collegno. Ragazzi, noi a Collegno e anche a Grugliasco vogliamo via Josip Broz Tito. La firmi sta petizione? Ma sì, perché no, dai. Perché no? A Lubiana non la vogliono via Josip Broz Tito. Infatti il 3 ottobre del 2011 la Corte Costituzionale della Slovenia ha dichiarato incostituzionale la dedicazione di una strada di Lubiana a Tito, avvenuta proprio nel 2009, dichiarando che ciò avrebbe comportato la glorificazione del regime totalitario da questi costituito e una giustificazione delle gravi violazioni dei diritti dell'uomo e della dignità umana avvenute durante il suo regime, bla bla bla bla. Su questo gli sloveni sono molto divisi, credo, perché ci sono quelli jugonostalgici che vanno sempre a farsi le vacanze a Belgrado, cercano in qualche modo le loro radici e il loro passato jugoslavo, e quelli che invece lo negano e si sentono in qualche modo germanici, austriaci e totalmente slegati da tutto quel, da tutto quello che era la Jugoslavia e i Balcani. Sì, gli sloveni come... sono sicuramente i più crucchi della, della cricca jugoslava. I più crucchi della cricca. Sì. Secondo un altro biografo, Pero Simic, Tito sarebbe stato un agente del, dei servizi segreti russi, cosa che peraltro è molto probabile che fosse. Avrebbe avuto il delicato compito di organizzare negli anni 30 la cellula jugoslava del Partito Comunista, e questo anche penso questo che corrisponda sì, a verità. Sì, dimostrato, sì, si è formato nell'Unione Sovietica e poi fu mandato nella Jugoslavia, regno jugoslavo di allora sotto occupazione nazifascista, a riorganizzare il partito e a prendere, diciamo, a diventare leader della resistenza poi. Ma al di là del fatto cosa fosse, chi fosse, eccetera, comunque lui poi si è, ha detto no all'Unione Sovietica, si è emancipato completamente e ha fatto prendere un'altra strada alla ex Jugoslavia, che era il paese tra i fondatori del terzo blocco, dei non allineati, insieme all'Egitto e all'India, e poi dopo entrarono tutti gli altri paesi, soprattutto paesi dell'Africa. Sì, tra l'altro il medico personale di Tito, che si chiamava Aleksandar Matunovic, dopo la morte del suo assistito si disse convinto che l'uomo chiamato Josip Broz doveva per forza essere nato in una famiglia aristocratica, e quindi che non fosse il vero Josip Broz, il fabbro nato dalla famiglia di Kumrovec. Sì, ci sono molte stranezze, ci sono, cioè lui suonava il pianoforte, era un grande viveur, intenditore di cibi, di vini, eccetera. È un po' strano che un poveraccio che è nato in una famiglia contadina con 15 fratelli e sorelle eccetera, che senza nessuna istruzione particolare, a parte quella chiaramente ricevuta dal partito, che comunque non era poco, conoscesse tutte queste cose. Era anche un intenditore del cinema, dopo aveva un cinema personale nella sua villa, giocava a biliardo, a scacchi, sì, conduceva una vita, vabbè, molto raffinata, quindi un po' strano, un po' diverso anche dagli altri dittatori che magari vengono da una classe sociale inferiore. Ma chi lo sa? Infatti, in una delle ultime conversazioni appunto con questo medico, Tito avrebbe rivolto al dottore queste parole: Di sicuro lei mi conosce bene, dottore, ma si illude se pensa di sapere tutto di me. Nessuno conoscerà mai il vero Tito, come nessuno l'ha mai conosciuto finora. Io sono Faust, il Faust di tutti i Faust. Wow. E quindi un'altra delle ipotesi, invece, a me piace raccontare un po' questi aneddoti per sentiamo la prossima, dai. Pizzicare un po' la vostra curiosità. La prossima è che Tito avrebbe ucciso Stalin. Ammesso che Tito fosse un agente appunto dei servizi segreti russi, occorre dire che i suoi rapporti con l'establishment moscovita non fossero poi così buoni, specialmente dopo la plateale rottura nel 48, quando il Partito Comunista Jugoslavo entrò in collisione con Stalin e gli disse no. Proprio la morte del dittatore sovietico sarebbe stata organizzata da Tito a sostenerlo, e addirittura lo storico, mi viene da ridere, ho letto molti libri di storia di questo sloveno, Jože Pirjevec, nel suo libro Tito in Tovarisci. Quando Stalin morì il 5 marzo del 1953, sulla sua scrivania venne ritrovata una lettera vergata dal compagno Tito, il quale usava toni particolarmente minacciosi. Stalin aveva cercato di ammazzare Tito per ben 22 volte, inclusa una con uno scrigno di gioielli capace di emettere gas nervino una volta aperto. Nella lettera c'era scritto: smettila di mandare emissari a tentare di uccidermi, o la prossima volta ne manderò io uno a Mosca e ti assicuro che non ne servirà un secondo. Questo è grosso modo il contenuto della lettera rinvenuta sulla scrivania di Stalin. Fantastico, una roba da James Bond, da film di James Bond. Infatti l'ipotesi apparentemente non del tutto infondata è che agenti inviati da Belgrado abbiano avvelenato il leader del appunto Partito Comunista dell'Unione Sovietica, come da lui stesso riferito durante la sua agonia che si protrasse per più giorni. Comunque nel caso penso che si siano avvalsi di qualche aiuto esterno, non penso che abbiano fatto credo tutto da soli. Credo anch'io che i servizi jugoslavi non avevano la capacità e il supporto logistico tale da riuscire a fare breccia nel KGB così facilmente, quindi anche se fosse vero sicuramente l'avranno fatto in coordinamento con qualcun altro, con la CIA, con i servizi britannici, non lo sappiamo. Va bene, un'altra invece delle opzioni, perché ci tenetevi forte, cioè ce n'è ancora, non abbiamo finito le nostre cartucce. Un'altra delle ipotesi è che Tito fosse ebreo, cioè un massone, oppure un figlio illegittimo di Winston Churchill, o tutte queste tre cose insieme. Poi questo piace dire ai nazionalisti e ai vari parafascistoidi dei Balcani, che chiaramente credono nel complotto massonico giudaico e quindi dovevano appioppare questa etichetta che per loro è il male assoluto anche a Tito, cioè questa sicuramente una delle ipotesi più strampalate e meno credibili. Beh, la cosa certa è che Tito avesse degli ottimi rapporti con massoni tra virgolette come Winston Churchill, e soprattutto anche con il premier indiano Nehru, con il quale concepì l'idea appunto dei paesi non allineati. Ma questo non c'è niente di strano, insomma tantissima gente fa parte della massoneria ormai. Calmati, non è che volevo dire che era figlio di Churchill. E comunque i legami con Churchill sarebbero stati più profondi, stando ad alcune teorie complottiste che vorrebbero Tito niente meno che il suo figlio illegittimo. Il maresciallo sarebbe infatti nato dall'unione illegittima di Churchill con una sua amante ebrea. L'elemento sionista, un vero must di dietrologie complottisti, è presente anche in un'altra leggenda urbana secondo la quale Tito sarebbe in realtà Joshua Ambrose Mayer, nato in una ricca famiglia ebraica di Vienna il 1891. A coronare il tutto, la storia continua con un giovane Tito che frequenta le scuole proprio nella capitale dell'impero, fianco a fianco con un giovanissimo Adolf Hitler. Addirittura, qua i fuochi d'artificio proprio. Infatti, allora continuiamo con la nostra programmazione musicale, ci andiamo a ascoltare dei Cudidioti o Bella Ciao, un pezzo dell'album, te lo ricordi? L'album è Bolivia Rock and Roll del 1988, mi pare. Va bene, allora questi sono i Cudidioti. Thank you. E questi erano i Cudi Idioti con Bella Ciao, un pezzo evergreen che ci piace tanto. Cudi Idioti, un gruppo di Pola, uno tra i gruppi punk rock più amati della ex Jugoslavia, è il primo ad aver suonato in Serbia dopo la fine del conflitto, cioè sono stati i primi a rompere il ghiaccio, accolti ovviamente molto calorosamente dal pubblico. Continuiamo a parlare di compagno Tito, prima ancora che il grande leader è un'icona pop vera e propria. Già nel 1944 il suo ritratto appare sulla prima pagina di Time, e poi, poi una decina di anni dopo, all'inizio degli anni 50, mi pare Life, la rivista Life, pubblica una sua autobiografia. Addirittura era un personaggio rispettato anche dai politici, leader politici della sponda opposta, quindi dell'Occidente. Era rispettato da Margaret Thatcher, ma più tardi addirittura da Bill Clinton, uno non avrebbe, non direbbe mai. E poi chiaramente lo ne parlava bene, lo rispettava molto anche Ernesto Che Guevara, Martin Luther King, Yasser Arafat, che poi era bellissima presente la foto con Arafat in cui si abbracciano, è proprio una foto icona, no, di quegli anni. Sì, cioè negli anni 70 Jugoslavia diede il permesso anche, questo mi viene in mente sul momento, a un aereo rapito dall'OLP, venne dato il permesso di atterrare all'aeroporto di Belgrado, adesso non mi ricordo esattamente che anno era, ma tipo a metà anni 70. Quindi durante il suo funerale praticamente ci fu di tutto di più, cioè era uno dei più grandi funerali di un uomo di Stato, dove erano presenti praticamente tutti, appunto anche gli avversari, la gente appunto che apparteneva ai blocchi opposti. Infatti, quattro ore. Si è trovata lì. Ben quattro re, 31 presidenti, 6 principi, 22 ministri e 47 ministri degli esteri da 128 paesi, da entrambe le parti della cortina di ferro, fra cui appunto Indira Gandhi, Margaret Thatcher, eccetera. Questo record fu superato soltanto dai funerali di Papa Giovanni Paolo II nel 2005. Jean-Paul Sartre addirittura disse che la Jugoslavia di Tito è in pratica la realizzazione della sua filosofia. Sicuramente sul piano teorico, probabilmente Jean-Paul Sartre non sapeva come funzionavano le cose in realtà, viste dal vicino. Comunque, va bene così. Beh, non mi sembrava proprio uno stupido, comunque Jean-Paul Sartre. Non lo sapevo, però ne sono rimasta colpita positivamente da questa informazione di Sartre, perché sono una fan tanto di Sartre quanto del maresciallo. Ma a parte i filosofi marxisti di sinistra che venivano ospitati spesso e volentieri, in particolare durante una scuola estiva che si teneva sull'isola di Korčula in Croazia, organizzata dal gruppo Praxis, era in praticamente un gruppo di studio appartenente al marxismo critico, diciamo, e quindi allora veniva lasciato spazio, ma probabilmente perché comunque erano abbastanza innocui, cioè era una cosa di elite che non poteva creare i problemi se non per un breve periodo durante il 68, dove c'erano molti professori che partecipavano a questi incontri e che quindi cercarono poi di mettere in pratica queste teorie. Che altro dire? Appunto, stavo per dire un'altra cosa, giusto? A parte gli intellettuali di sinistra, a Tito piaceva contorniarsi di attori come Sophia Loren, soprattutto attrici, a parte gli attori. Non era mica scemo, infatti Jovanka sappiamo bene, ecco, forse l'unica cosa che possiamo dire di mettere le mani sul fuoco è che Jovanka non fosse assolutamente non cornificata. Vabbè, su questo questo non ci piove. Quindi era amicone con Yul Brynner, con Richard Burton, che tra l'altro ha interpretato, era in due film mi pare, La battaglia di Sutjeska e di Neretva, due delle battaglie più epiche della Seconda Guerra Mondiale, di cui una, quella di Sutjeska, non era una vera e propria vittoria, semplicemente il quartier generale si era riuscito a salvare con una battaglia disperata dove morirono, ma credo, tipo 10.000 combattenti, una cosa allucinante. E quindi poi successivamente negli anni 70 fu fatto il film che raccontava questo, questa grande battaglia, e appunto Tito venne interpretato da Richard Burton, che poi dopo è tornato spesso e volentieri in vacanza in Jugoslavia. Ma gli misero il classico vestito bianco al Burton? No, era vestito in uniforme, chiaramente. Ma non era in... No, vestito bianco è venuto dopo, molto dopo. Nell'immediato dopoguerra ha mantenuto uno stile ancora sobrio. Va bene, allora andiamo a ascoltarci la nostra bionda preferita. Lei è Lepa Brena con Jugoslovenka. Lepa Brena con Jugoslovenka, e adesso siamo giunti al nostro momento di informazione. Bene, il tempo corre, purtroppo dobbiamo lasciare il compagno Tito, lo riprenderemo sicuramente nelle puntate future, è un argomento troppo ampio per essere trattato all'interno di una sola puntata, quindi adesso appunto passiamo alle notizie. La prima riguarda una petizione che ho firmato recentemente e riguarda... Non è quella di mettere la via Josip Prostito con legno grugliasco? No, di questo volendo. Vedremo più avanti, magari dopo le elezioni. Riguarda un'isola che si trova nelle Bocche di Cattaro in Montenegro, in pratica il governo montenegrino l'ha messa all'asta per una sorta di comodato d'uso dai 30 ai 90 anni addirittura. È un'isoletta che si trova proprio all'ingresso della baia, è un po' il simbolo della città di Herzegnovi o Castelnuovo in italiano. si sono fatti avanti molti compratori, ma delle holding chiaramente, che vorrebbero costruire un complesso di lusso, le solite cose, le solite speculazioni, con addirittura una pista da atterraggio per gli elicotteri, cose di questo tipo. Insomma, un hotel di lusso, un hotel esclusivo. Ma io non esclusivo. Ho capito se c'entrano i russi o no. Non lo so questo, non lo so, c'entrano, dici, c'entrano, quando si parla di Montenegro c'entrano subito i russi, spesso e volentieri così, perché c'è una forte presenza, hanno fatto degli investimenti molto molto consistenti negli ultimi anni, in particolare dal 2000 in poi. Quindi a questa decisione del governo montenegrino si è opposto un comitato di cittadini e anche una parte del consiglio comunale di Herceg Novi, chiedendo di revocare questa sorta di asta e di preservare l'isola, che non ho detto neanche il nome, si chiama Isola Mamula, o meglio Lastavica, si chiama Lastavica. Mamula è in pratica il nome della fortezza austro-ungarica presente su quest'isola qua, quindi un monumento storico molto importante. Successivamente era stata utilizzata come carcere anche durante la Seconda Guerra Mondiale, fu fatto anche un film su questa isola qua, di Alcatraz, un film in cui, tra l'altro, se non sbaglio, tuo nonno faceva l'attore. Esatto, anche mio nonno, che purtroppo non ho mai conosciuto, ha interpretato, credo, un ufficiale italiano, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che ha interpretato un cattivo. Si chiamava tuo nonno? Si chiamava Dušan Krcun Đorđević. Quindi c'è stata questa mobilitazione veramente grossa per una città sonnecchiosa come Herceg Novi, una piccola città di provincia, un paese turistico, è prima volta mi risulta che ci sia una mobilitazione di questo tipo, molto, molto determinata per preservare l'isola Mamula come un bene comune e lasciare la possibilità a tutti di visitarla, eventualmente ristrutturandola fortemente, rendendola più agibile, ma senza costruire questi complessi elitari turistici, ce ne sono già troppi, soprattutto non con la scusa di dare posti di lavoro, perché tanto sappiamo che sì, questa è l'eterna scusa, ma in realtà non ci si guadagna niente. Il fatto che 10 persone del posto verranno a lavorarci per guadagnare 500 euro al mese non è che sollevi le sorti del paese o cambia qualcosa di significativamente a livello economico. Tra l'altro succede la stessa cosa anche in Croazia con l'isola di Brioni. Infatti, per risollevare le casse dello Stato, il governo croato ha comunicato di voler trasformare l'isola Brioni Maggiore, parte di uno dei più rinomati parchi naturali dell'Adriatico, l'arcipelago delle isole Brioni in Istria, in una meta turistica di lusso. Infatti l'isola verrà concessa a un investitore privato e le procedure di assegnazione sono cominciate proprio questo gennaio. Secondo quanto affermato dal ministro del turismo Darko Lorenzin, il concorso per la concessione mirerà a trasformare l'offerta turistica dell'isola in una destinazione esclusiva a livello globale, che rispetterà i più alti standard del turismo di lusso. E quindi, anche se noi pensavamo che la Croazia, che in genere a livello di offerta turistica ha tantissime spiagge libere, fosse esonerata da questo discorso, beh, anche la Croazia ha deciso di risollevare le casse dello Stato vendendo isole così a caso, come sì, fosse non è un risico. Primo caso, però dobbiamo spiegare perché è importante parlare di Brioni. Cioè, abbiamo parlato di Tito Brioni, diciamo, era proprio sull'isola di Brioni c'era una delle residenze più importanti di Tito, e poi lì si tenevano tutte le riunioni importanti e riservate del Partito Comunista Jugoslavo, venivano accolti gli ospiti di onore, eccetera eccetera, un luogo che ha un'importanza storica, no? Certo, allora, se volete sapere di più per quanto riguarda il caso dell'isola di Brioni, c'è un bellissimo articolo di Matteo Zola su Is Journal. Mentre per quanto riguarda l'isola di Mamula, dove possiamo trovare informazioni? C'è un gruppo su Facebook, ma Guarda, posterò il testo della petizione, adesso non so se dovrebbe essere stato tradotto in inglese, lo posterò sul nostro gruppo Balkan Rocket My Radio, così se qualcuno vuole leggere. Purtroppo la petizione può essere firmata soltanto da cittadini montenegrini al momento, perché è una petizione ufficiale, non di quelle simboliche, di quelle che... fuffa da, da fuffa, militanti fuffa, di diciamo, internet. Non è soltanto una testimonianza, ma ha un valore legale, poi non sto adesso a spiegare, verrà consegnato poi al Parlamento montenegrino. Va bene, allora ci andiamo a ascoltare i Vampiri con Rama Lama Ding Dong. Ding dong, Rama Lama, ding ding dong, Rama Lama, Lama Lama Lama Ding Dong, Rama Lama, Lama Lama Lama Ding. Tra l'altro grazie al nostro all'aiuto del nostro preziosissimo gruppo Facebook, in cui quotidianamente i radioascoltatori postano canzoni tamarre e meno tamarre, e noi li ringraziamo perché senza di loro non potremmo venire a conoscenza di pezzi così belli. Assolutamente, abbiamo un pubblico espertissimo, tutti balcanofili e jugoslavisti provati. A volte mi viene il dubbio, ma che ci sto a fare qua? Questi sanno già tutto quando leggo i post. Esatto. Infatti li salutiamo e esortiamo tutti voi, vecchi e nuovi, a seguirci sul nostro gruppo Balkan Rock at My Radio, gruppo Facebook, e sul nostro blog balkanrock.noblogs.org. A presto, presto avremo anche un indirizzo mail, per cui possiamo anche scriverci tantissimo durante la settimana. Il pezzo in chiusura lo voglio dedicare proprio a tutti loro, a Ivan, a Natasha, a Ciccio e Biliana da Palermo e dalla Macedonia, a Roma. omofobi, insomma tutti quelli che quotidianamente fanno sì che Balkan Rock non stia solo chiuso in queste quattro mura, ma viaggi un po' in tutta la rete con il loro aiuto. Quindi un saluto da Slaventina e da Dusko. Cari Drugovi e Drugarice, vi auguro una buona serata. Va bene, questi sono Rock Partisani, Yugo. Questo è il bello della diretta, ragazzi. Alla prossima domenica. Брат своєдинства, своєму югі се родив. Добив пони сам коло, а річо рутко й капіцо. Пели смо пісні о нашім воді, сам било на біле по. Біла нека тайна веза, ки є дружила се нас. Тут словано, три партизано, і мрачуна. Vater nas brani, ne oči Peter, to je Jugoslavija.